sulla strada che porta verso il mare. Ti han trovato la faccia contro i sassi, ti han trovato la bocca ancora aperta, ma oramai non potevi più parlare. Dopo un'ora è arrivato il commissario e ti ha fatto coprire con un velo. Cercava sulle facce della gente quello che non potevi dire più. Stringi in mano la terra che cadrà su di te, hai la bocca sui sassi e non parlerai più. Hai pagato col sangue per il tuo tradimento questo conto di morte alla società. Tra tutta la gente del paese e alla chiesa del Santo Sacramento per guardare tuo padre e i tuoi fratelli che ti portano verso il campo santo. Manca solo tra tutti il commissario, è rimasto in ufficio a interrogare, ma non trova nessuno che abbia visto o che sappia un po' di verità. Stringi in mano la terra che cadrà su di te, hai la bocca sui sassi e non parlerai più. Hai pagato col sangue per il tuo tradimento questo conto di morte alla società. Anche io sono stato interrogato, anche io ho risposto non so niente, ma l'ho detto soltanto per paura, e invece so benissimo chi è stato.